e finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere ...39 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. Un saluto a Elettrodo e alle sue prove tecniche di trasmissione. Ed è mercoledì 27 di febbraio del 2013. Redazione piuttosto piena questa sera. Perché noi non festeggiamo nessun risultato elettorale. Le elezioni per noi sono proprio collaterali. È una roba su cui al limite così usare come strumento per capire il mondo che ci circonda e come agire nel mondo, nella realtà. Non è ancora Bemus Papam. Anche perché la scheda bianca o gialla non ce la danno mica. Però siamo in tanti perché il 27 di febbraio un bel 19 gliel'abbiamo strappato. In tante. E quindi questa sera andiamo a brindare fra poco. Allora, 25 o'clock, che trasmette sugli 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale di Radio Onda Rossa. Ai controlli www.ondarossa.info. Il sito della radio. La radio che nel 77 vi piaceva, vive libera nell'etere, senza padroni né padrini. E vive di autogestione grazie al vostro contributo. Se in termini di pensiero, di supporto logistico, di forza e di contributo, di idee che ci date, sia in termini del sostegno economico che non fate mai mancare a Radio Onda Rossa. E a ciò vi rammento quello che è il sito della radio www.ondarossa.info, dove troverete tutte le informazioni che riguardano appunto Radio Onda Rossa, la sua storia, i podcast delle corrispondenze, delle trasmissioni che la radio produce, o meglio autoproduce. E andando su Sostieni troverete tutte le modalità con cui appunto sottoscrivere per Radio Onda Rossa. E andando su Ascolta la diretta potrete ascoltare la radio in streaming da ogni parte del globo raggiunta dalla rete. diciamo però pure quello che è il numero, il conto corrente postale della radio, quello che ci preme e che ci piace di più di dirvi. 61 80 40 01, il numero del conto corrente da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185, Roma. San Lollo. E non si è sentito. Vediamo un po', vai. Ecco, come si sente. Roma. San Lollo. È uscito. Radio Onda Rossa che trasmette nell'etere dal 1977. E un'altra cosa, c'ha, oltre al nome e il cognome, che risale al 1977, e cioè il numero che già conoscete dal momento che illuminate di rosso la radio con la radiazione più rossa che c'è, 06491750, il recapito telefonico. Iniziamo subito così, mentre ci godiamo il 19. Small from way out here, the last thing you will feel is fear. We gave you a chance to do the right thing. Screams of pain. There are no leaders you can blame. The virus destroyed your sphere. This is the end now. this is the 21-19. Che cabala. Questi sono gli Hawkwind. Messere fantasma. A rischio peraltro pure di esorcismo, perché qui, a quanto si sa, insomma, chiedono appunto delle persone, insomma, di voler disinfestare la radio dalle presenze demoniache. Siamo stati contattati da fattucchiere, stregoni, e cercano di esorcizzare la redazione della radio. Sì, no, così con fare magari l'offio vorrebbero entrare qua, ma qui insomma noi resistiamo. Ma a parte resistiamo, qui ormai è un'infestazione che non siamo nemmeno più padroni di noi stessi, quindi. E lo andremo a dimostrare, stasera. Comunque sono ben accette fattucchiere, streghe, stregoni, streghette. Li sfidiamo? Sì, li sfidiamo. Venite quando volete, insomma. Ma soprattutto quelli e quelle, quelle streghe e quei stregoni che invece di combatterli, gli spiriti malvagi li evocano. Li evocano, ci convivono, insomma. Siamo contro ogni tipo di discriminazione. Umane e non. Selvaggi per selvaggi. Questo era il 2008. Dagli Hawkwind del 72, appunto, al 2008. Ma la band ancora più vecchia. Loro sono gli MC5. Vengono da Detroit. Punto. Motor City 5 e loro ne hanno in 5. In un mondo che cambiava fisionomia, perché l'automobile ne era il centro sempre più evidente e dirompente, e ne era anche la principale contraddizione nascente, MC5. Yes. Looking at you. This one's all about looking at you. Dal vivo. Thank you. E in un redazionale di un paio di giorni fa chiedevamo se eravate, anzi no, di ieri, se eravate contenti o meno, perché c'è grande confusione. Ovviamente piccole e grandi cose si intrecciano. Rendendo sempre le sensazioni che abbiamo molto più confuse. Combattute. E quindi se dopo 21 viene 19... Un'altra buona notizia, finalmente, che è girata già oggi, anche qui per radio. È vero che abbiamo delle naturaliste, delle biologhe. La notizia è proprio che l'operazione Ixodiade, che vuol dire nome scientifico di zecca, che nomi si inventano gli sbirri, che riguardava compagni e compagne di Trento, è finita con una assoluzione per tutti e tutte. Gli avevano indicati come gli organizzatori degli scontri del giugno del 2011 in Valsusa e altre menate del genere, perché appunto si ha sempre dalla parte sbirresca l'idea che i compagni, le compagne, i movimenti siano fatti di capi, sottocapi, burocrazie. Ipotesi che nemmeno passata al vaglio della magistratura ha saputo superare. Questo livello istituzionale, quindi badate un po'. E a proposito di esorcismi, di religioni, di papi, di papesse nere, della religione ci facciamo pensare Public Image Limited, Johnny Rotten, a spiegare un po' cosa ne pensa e ne pensiamo. Stained glass windows keep the cold outside, while the hypocrites hide inside with the lies of statues in their minds, where the Christian religion made them blind, where they hide and pray to the god of a bitch spelt backwards is dog. Not for one race, one creed, one world, but for money, effective, absurd. Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host? Do you read who's dead in the Irish Post? Do you give away the cash you can't afford on bended knees and pray to the Lord? Fat pig priest, sanctimonious smiles, he takes the money, you take the lies. This is religion and Jesus Christ. This is religion cheaply priced. This is Bibles full of libel. This is sin in eternal hymn. This is what they done. This is your religion. The apostles were 11. Now there's a sod in heaven. This is religion. There's a liar on the altar. The sermon never falter. This is religion, your religion. This is religion. Public Image Limited. Continuare il contrasto nei confronti di questi lavori che stanno provocando lo scempio sotto gli occhi di tutti. Come questo cantiere sta crescendo, anche la nostra lotta dovrebbe crescere. Penso che la manifestazione del 23 marzo prossimo possa essere un'ulteriore occasione per rilanciare l'opposizione popolare. Quindi invito tutti a farsi un giro qui, a tenere sotto controllo i lavori, ad organizzare strategie, modalità per disturbare questo cantiere. Credo che la fantasia e la creatività popolare metta a disposizione ampi strumenti. Bisogna solo esserci e aver voglia di mettersi in gioco. Intanto è già molto bello ed emozionante essere qui ad un anno di distanza insieme a Luca. E poi certo, è sicuramente stato un anno intenso ed è stato un anno dove il mio modo di lottare necessariamente è dovuto cambiare, nel senso che io per tanti mesi ho dovuto lottare insieme a lui in un altro posto che non era il territorio dove abitiamo, dove comunque stanno facendo tutto quello che si vede alle nostre spalle. Però sicuramente anche attraverso quelle giornate drammatiche ci sono stati sia inizialmente nelle prime settimane, nei primi giorni, sia poi durante tutto il corso di questo anno, dei risvolti anche positivi di tutta questa vicenda. La grande solidarietà che abbiamo ricevuto, la vicinanza di tantissime persone che comunque mi hanno dato forza e mi hanno aiutato per superare questo grosso trauma, anche di vedere comunque la propria persona, il proprio compagno, la persona che ami, ridotta dalle forze dell'ordine quel giorno in questo modo. Sicuramente il fronte giudiziario non è stato voluto da noi, però il nostro malgrado ci viene richiesto di impegnarci anche da questo punto di vista. I numerosi procedimenti penali aperti, e in particolare il maxi processo contro 52 attivisti, per noi può essere un'occasione per rilanciare questa lotta, rigettare le accuse e rivolgere la nostra accusa verso quello che stanno combinando questi signori. E il fatto invece di continuare le azioni di contrasto e di attacco a questo cantiere è un modo attivo per solidarizzare con gli imputati e per rivendicare il percorso che abbiamo fatto finora. Quindi, seppur il movimento non è abituato nella sua storia ad avere a che fare con tutta questa miriade di procedimenti giudiziari, è un ambito che va seguito ed è un terreno che può essere usato per rilanciare le nostre istanze e le nostre ragioni. Sicuramente il fatto di continuare a fare azioni sul cantiere è una cosa importantissima, perché è solo facendo cadere queste reti e questi muri che noi interromperemo questi lavori, che non vogliamo assolutamente. Quindi dobbiamo continuare in questa lotta. Dobbiamo creare attraverso la fantasia popolare, come diceva Luca prima, continue azioni di disturbo, di sabotaggio. Come abbiamo detto quel giorno, il 29 settembre, quando c'è stato il ritorno in Clarea, noi questo cantiere lo dobbiamo tirare giù in qualche modo. E quindi si tratta di non sentirsi rassegnati assolutamente, ma anzi di sentirsi sempre più vivi, perché venire qui è sicuramente molto costruttivo, nel senso che il sentimento che si prova dentro nel vedere questo scempio, questa devastazione, questo rumore, queste vibrazioni che sentiamo anche in questo momento mentre siamo seduti, ci devono dare la forza per respingerli, per ricacciarli, per rimandarli da dove sono venuti. Ci sono mille creature dei boschi, elfi, folletti, streghe e maghi. Andranno a toccare, a disturbare le macchine che mordono la terra. E quindi fate i vostri esorcismi, perché le macchine si inceppano. Si inceppa sempre di più la macchina della produzione e della distruzione. Troppo complicate. Meccanismi troppo delicati. Si rompono, si spezzano, si incagliano, si inceppano. Alziamo il tiro, perciò, da Milano, calibro 35. Suoni degli anni 70, rivisitati dopo 21, 19 e poi 30. New Delhi Delhi. We'll be right back. questo è 25 O'Clock, questa è Radio Onda Rossa. Questi sono i NAM. Formazione statunitense che spesso e volentieri vi facciamo ascoltare da queste parti. Ci siamo esaltati, sì sì. Dopo aver salutato la fantasma e sorelle che vanno a proseguire i festeggiamenti. Dicevamo, ci sentiamo, ci siamo sentiti esaltati perché di tanto in tanto scopriamo un suono. E forse scopriamo anche il nostro ruolo di mettitori di dischi. E quando scopriamo un suono ci viene di spingerlo a manetta. E probabilmente come lo è stato per questi NAM, ma probabilmente ancora di più, uno di quei suoni che si sentono una volta ogni 5 anni, forse anche ogni 10. Vi andiamo a presentare un paio di tracce che il fantasma come formazione, questi Goat, aveva già struciato, sostiene. Probabilmente senza soffermarci, sì. Però quella là. Soffermiamo. 23:23. Minuti primi a Radio Onda Rossa. Il loro disco si chiama World Music. Loro vengono dal nord della Svezia, Goat. questa è Goated. Got. Gli ultimi 30 secondi sono di rumore di sottofondo. E loro sono un chitarrista piuttosto ispirato e ridondante, due coriste, un bassista, un percussionista e una batteria. Andatevi a cercare su YouTube, questa è l'altra traccia che andiamo ad ascoltare e si chiama Disco Fever. We'll be right back. E 23:38 su Radio Onda Rossa. Questo è 25 o'clock. 87.9 MHz di frequenza. E visto che ci stiamo spostando su sonorità folk, vi andiamo a proporre un lavoro del 2012 per i Six Organs of Admittance. Progetto del chitarrista Ben Chasney. E quindi dal disco del 2012, Ascent. Ci andiamo ad ascoltare Solar Ascent. questi erano i Six Organs of Admittance, dal loro ultimo disco del 2012, Ascent. Il pezzo era Solar Ascent. E insomma, storicamente gli inglesi si fregiano di essere i più punk di tutti, loro che sono stati la patria del punk. Però chi è più punk di noi? Cioè, voglio dire, senza papa, senza governo, senza capo della polizia, cioè lo stato punk siamo noi. E comunque, se questi sono i presupposti, vi andiamo a proporre un pezzo di Paul Shane, che vi invitiamo comunque a ad ascoltare bene i testi. Certo, però me era venuto, vedi, ma adesso non ce l'abbiamo, perché dopo questa tua cappello introduttivo, qui ci andava i Bloody Riot, Anarchia per l'Italia. Però vabbè, la mettiamo dopo. La mettiamo sicuramente. Sì. Non ce l'ho appresso, quindi toccherà trovarla. Beh, la mia risposta era abbastanza apocalittica a tutto ciò. Ci andiamo ad ascoltare Paul Shane con Armageddon. E martedì 26 febbraio, ieri notte a Ponte Marconi, vicino l'Acrobax, nella notte due ragazzi escono dall'ex cinodromo con il motorino e si imbattono in una pattuglia della polizia. Mentre sono fermi al semaforo rosso, la volante sbatte il suo muso sul bauletto posteriore. E da lì la situazione degenera in un attimo. I due provano a girarsi e vengono ripetutamente colpiti dal muso della pattuglia fino a cadere in terra. Come nella migliore delle banlieue, i due idioti in divisa scendono dall'auto e si accaniscono sui ragazzi, i quali invece di essere soccorsi vengono aggrediti. Gli vengono sottratte le chiavi del motorino e il telefono cellulare. Quello che i due energumeni in divisa non hanno considerato è che non sempre i soprusi incontrano ragazzi da soli indifesi nel cuore della notte, come è accaduto al giovanissimo Federico Aldrovandi, la cui memoria solo ieri è stata di nuovo offesa dai poliziotti che hanno applaudito il suo assassino. In questo caso gli eroi in divisa hanno incontrato la rabbia di chi non tollera gli abusi e le prepotenze degli sceriffi dei noantri. Tutti i compagni e le compagne di Acrobax, riuniti per l'assemblea, sono usciti in strada e la pattuglia si è data alla fuga. Pochi istanti dopo la pattuglia si ripresenta. Fermi i blindati della Celere che passano in continuazione in una città militarizzata per le elezioni, le dimissioni del Papa o forse solo per la paura di una perdita, di una perduta coesione sociale. I blindati diventano due, poi tre, dei volanti sei, poi sette. La Celere si schiera con caschi, scudi e manganelli. Dalla nostra parte si organizza immediatamente un workshop di scienza della barricata, quella in cui ognuno ormai è maestro. Arrivano compagni e compagne a sostegno da tutti gli spazi occupati di zona e l'ingombrante presenza delle forze dell'ordine si sposta dalla strada di accesso al cinodromo ed infine se ne va. Oggi, alle pecorelle senza pastore, non chiediamo scuse o numeri di identificazione sulle divise, ma vogliamo indietro ciò che ci hanno rubato. Ancora una volta fascisti e polizia sono stati cacciati via. Ora è sempre ACAB. Ed ora un pezzo a caso che ci troviamo proprio qui in scaletta. Sono i Doom, Police, Bastard. We'll be right back. e questi sono dalla Germania, gli Assassin con Destroy the State, dal loro disco del 2011, Breaking the Silence. E dopo i Venom con Acid Queen, tiriamo il freno a mano tutto in corsa. E ci andiamo ad ascoltare una canzone dolce dolce. E quindi dei Venom. Schizzatissimi, blasfemi, sporchi. Ci andiamo ad ascoltare la brezza estiva, Summer Breeze dei Type O Negative. ma quante ne sa? Quante ne sa? E ci ha chiamato Erbanana. Ops. E non banana. E ci dice che questo pezzo dei Type O Negative, Summer Breeze, è una cover di un gruppo reggae, i Seals and Crofts. Quante ne sa banana? La voce più ascoltata di Radio Onda Rossa. Ogni venerdì presente in radio. Con la trasmissione hip hop. Niente da vendere. Non è ogni venerdì, ogni giorno è presente in radio. L'ho detto, la voce più presente di Radio, sì, Onda Rossa. Sì, sì, è giusto. No, dico banale, sto a fare la copertina. Sta tranquillo, tutto a posto. Invece il prossimo pezzo ci viene da un'ispirazione. Un'ispirazione latente di Gigio Barbaro. Il pezzo che ci ispira qui a 25 o'clock è un pezzo dei Dead Meadow. È del loro primo disco. Il pezzo è Green Sky, Green Lake. Thank you. L'avete aperto il vostro terzo occhio? Vi siete rilassati con i Dead Meadow? Avete raggiunto alti stati di coscienza? Ed ora ci pensiamo noi a rovinare tutto. What I feel. See what I Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, e andiamo a fare una piccola parentesi per ricordare innanzitutto che siamo ormai 25 minuti dopo la mezzanotte, quindi in piena ora rubata, ma pure in pieno 28 febbraio, che dopo il 22 è una data importante di febbraio, appunto, per la Roma antifascista. Ecco, 28 febbraio, cioè oggi, ci sarà il corteo di quartieri in memoria di Roberto Scialaba alle ore 17 all'angolo con la Tuscolana, via Calpurnio Fiamma. Alle ore 18 porta un fiore a Roberto a Piazza Don Bosco. Alle 19.30 presentazione dei murales in via San Giovanni Bosco. Alle ore 20 premiazione del concerto letterario con Roberto Scialaba, e mostra fotografica l'81 in via Calpurnio Fiamma 81. Una lacrima sciolta sul viso, una lacrima che non doveva uscire. Il cuore stringe, si ribella. I suoi tonfi accompagnano slogan che si alzano verso il cielo. Non basta il tutto, pagherete caro, pagherete tutto. Scritto da Roberto Scialaba per Walter Rossi. Roberto vive nelle nostre notti, Cinecittà non dimentica. 28 febbraio 78, 28 febbraio 2013, le compagne e i compagni. E nel comunicato di indizione di questa iniziativa, appunto, di oggi, si dicevano delle cose molto interessanti riguardo proprio alla funzione del ricordare, della memoria. Oggi ci ritroviamo nel 2013, appunto, con i fascisti che ancora una volta, con le più mutate forme che gli appartengono proprio storicamente, quella della camaleontica capacità di entrare, di essere comunque sempre dappertutto nelle istituzioni, soprattutto dentro i poteri forti dello Stato, così è sempre stato, si ripresentano appunto ogni volta, cercando tra l'altro di ogni volta di camuffare, di far dimenticare quella che è la propria storia, cioè una storia di oppressione, di stampella del potere, appunto, per reprimere nei modi e nelle forme, diciamo, più sporche, più tra virgolette al di fuori della legalità, e quindi di essere in realtà sempre stati, appunto, la stampella del potere. Ecco, questa cosa invece camuffata sempre è sempre più dimenticata, tanto più, appunto, che in questo paese appunto questo fatto è uno dei loro principali motivi di esistere. Appunto, Roberto Scialaba il 28 febbraio, e qualche tempo dopo invece andremo a ricordare i 10 anni dall'omicidio di Taxi, ancora una volta per mano fascista, a Milano. 10 anni senza di te, 10 anni con te. Venerdì 8 e 9, sabato 9 e domenica 10, iniziative di lancio e autofinanziamento a Roma. Sabato 16 marzo, corteo nazionale a Milano, appunto, per ricordare Dax. Ma ancora ne vogliamo dire una: poco prima delle elezioni a Verona, praticamente una conferenza indetta da un collettivo di compagni e di compagne di Verona, appunto, voleva parlare delle foibe in forma storica. Ecco, i fascisti si sono presentati e con un'azione squadristica hanno praticamente interrotto nel silenzio istituzionale di quella città, appunto, retta da un'amministrazione che comunque è sempre stata compiacente con le scorribande di questi ragazzotti, appunto, nel silenzio delle istituzioni di fronte a questa ennesima azione squadrista. Ecco, quindi in tutto questo noi non dimentichiamo e passo passo ricordiamo tutte le malefatte di costoro. E appunto, per quanto riguarda Dax, ancora c'era la vediamo se lo troviamo, eccola qua, dove sta, eccola qua. Dicevamo, appunto, 9 marzo all'OA Acrobax, via della Vasca Navale 6, metro B San Paolo, iniziativa a sostegno del Pullman per Milano alle ore 20, trattoria sociale appunto ad Agrobax, dicevamo prima, ore 22 musica e lotte sociali, e poi Chaos for Chaos, Combat da Terni, Vortex Clash Fit, Cuba Cabal, più il Nano Punk Electro Hip Hop, da Bologna, Pescara, Roma, appunto, Vortex Bologna, Cuba Cabal, Pescara e il Nano da Roma. A seguire Seratone Trash con la Roaz, Roma Trash All Star, special guest Brega da Milano. E insomma, questo qui il 9 marzo, appunto, per finanziare la partenza dei Pullman da Roma per la, la 3 giorni, 4 giorni quasi milanese, in ricordo e con Dax. Mezzanotte 34. Questo è 25 o'clock. 87.9 MHz di frequenza. Radio Onda Rossa. E questi erano i Baby Woodrows. Del loro Third Eye Surgery. disco uscito per la Bad Afro Records l'anno scorso. E a mezzanotte 35. Mica siamo stanchi. Siamo freschi come una rosa. E visto che i piedi fremono nelle scarpette, e qua ci stanno i pischelli che ci hanno voglia di ballà. Quindi mettetevi i Ray-Ban in questo momento. Ingrassate i vostri stivali. Preparatevi all'ondata di sole. Quindi andate a disturbare il vicino alzando il volume della radio. Stappate un paio di birre. Trilleno. Eh sì. D'altronde il buon Dave Widorf, forse l'essere più coatto di tutti gli States, chiama, il pubblico e la pubblica di Radio Onda Rossa risponde 06 491 750. Quindi vi siete preparati? Sì. saranno le birre stappate che fremono. Oh, noi i Ray-Ban l'abbiamo indossati, eh. Noi Ray-Ban ce l'abbiamo tatuati. Un po' più di problemi per gli stivali di cuoio. E soprattutto per le mutande di latta. E quindi da capo. Just ain't working inside your head.

Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi! Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di Jones Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Vancouverland Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo. Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati. Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città! Sono stato chiaro? Sono stato chiaro? Sono stato chiaro? Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città, tutti noi uniti. Niente può accadere. Se noi non lo vogliamo, niente può accadere. Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere, perché ormai le strade sono nostre, ragazzi. Sono stato chiaro? Hanno il potere, sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. Ci è stato impossibile scoprire la verità, troppo impegnati a combatterci per 10 luridi metri di territorio. La nostra zona, fratelli, il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare e rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo, e il terzo, e tutti gli altri. Perché la città è nostra e noi la vogliamo, fratelli! ed è l'una qui a Radio Onda Rossa. MHz di frequenza della banda romana. E questo è 25 o'clock. E per chi è all'ascolto, dedichiamo Get Up dei Dropkick Murphys. Questa era Get Up. Dropkick Murphys. Il primo disco, Do or Die. Il prossimo pezzo. Per Alberto. Ed è un pezzo dei Kina. Ed eccoci di nuovo qui, Onda Rossa. Febbraio, da 1:13. E proprio questa sera, non questa notte, non questa mattina, ma nella serata di giovedì 28 febbraio 2013, scarceranda contro ogni giorno, contro ogni carcere, giorno dopo giorno, presenta Apocalypse Town, incontro, dibattito e proiezione del documentario Nomos. Alle ore 20:30, cena anticarceraria, quindi, a cura della Taverna del Forte. Alle 23, proiezione del documentario Nomos, che è presentata dall'autore. Alle 22:30, incontro dibattito e reading del Duca. Interverranno il Duca, Andrea Garadella Cardaiola, Francesca Iovani, Valerio Bindi, Andrea Russo. E ancora ci prendiamo un po' con i suoni. In questa esplorazione del cosmo, lasciamo le porte del cosmo. Che volevamo vedere il certificato elettorale, lo vogliamo vedere in tonso. Non ci interessa che qualcuno ci rappresenti. Certificato elettorale intonso. Con orgoglio. Non ci interessa che il mondo ci venga rappresentato. Abbiamo occhi acuti e profondi per guardarlo così com'è. I'm back, yo, I'm the Sheila, rock the microphone. Who's that fat pretty? It's me, we all up in the zone. Special editions. Perché noi, al contrario vostro, nel mondo ci viviamo. Ci stiamo dentro. Qualcuno ti spacca pure il vetro della macchina, eh? Sì. Perché oggi è così. Bisogna sbarcare il lunario. Bisogna svoltare la giornata. Questa è giungla. Impoverisci una popolazione intera. Metti a margine. Chiudi le gabbie. Free flow, moving with the drop. Taking it in multiple directions, pulling you in with universal. E dentro si svolta. Dwelling on the negative, I respect this beat, this jam. Putting in work for the monster plan. Keeping it fresh for the head to be. Non-stop dropping it naturally. Dropping on a regular basis. Dropping on a regular. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Noi vi lasciamo e vi salutiamo. Ci sentiremo mercoledì prossimo. Domani si continua dalle 8 con la rottura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali, il giornale radio delle 13, lo spazio comunicazione e infine visionare la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, Attica Blues alle 16, La Schiena del Sole alle 17, Profondo Rosa 18.30, 19.30 il GR della sera, spazio comunicazione a seguire, Allegro con Fuoco. Alle 20.15 La Cicogna Nera in replica, alle 21 in replica Noctibus Panis e un po' prima 22.30 Apostasia. Rimanete sintonizzati e sintonizzate il nostro più importante saluto va a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, CIE. Un abbraccio ad Alberto, a Marina. Ce ne andiamo così, sotto la luna comunista.

like the one I've got. Every day the sun comes up around her, she can make the birds sing harmony. Every drop of rain is glad it found her, heaven must have made her just for me. When she smiles so warm and tender, a sight for sore eyes to see. Ooh. Ain't no woman like the one I've got. Oh, no man don't come better. To make her happy doesn't take a lot. She don't ask for things, no damn reason. So together like a hand in glove, like pages in a letter. Ain't no woman like the one I love. She can be when it's down, I'm going. Put a little music in my day. Wouldn't be surprised if my love keeps growing. Bigger every minute that she stays away. I would kiss the ground she walks on, 'cause it's my word. My word she'll obey. She's a real good friend right to the end. So together like a hand in glove. Lonely man when she's gone. People, ain't no woman like the one I love. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. potete legarmi mani e piedi, riempirmi la bocca di terra. La poesia è sangue del mio cuore vivo, sale del mio pane, luce nei miei occhi. Sarà scritta con le unghie, lo sguardo e il ferro. La canterò nella cella della mia prigione. Dentro di me un milione di usignoli per cantare la mia canzone di lotta. Ieri sera si sperava di una eventuale manifestazione oggi per i bambini di Gaza. Stamattina ci siamo alzati, abbiamo trovato l'assembramento. Naturalmente, come qui, in molti altri posti della Cisgiordania, ogni giorno ci sono manifestazioni o sit-in della popolazione civile. Ho saputo che, ad esempio, a Calchiglia ci sono stati degli scontri e sono morti due ragazzi. Hebron ci sono attacchi anche notturni da parte dei coloni e quello che facciamo è andare nelle case dove hanno paura che ci siano questi attacchi, dormire con le persone e filmare se è possibile filmare. Quello che si sta distribuendo è proprio rifiuta l'apartheid e boicotta Israele. È stato messo con la stessa scritta uno striscione davanti appunto a questo centro commerciale con proprio la sbarra che è il divieto contro il codice a barre, il famoso codice a barre con il finale 729 che proprio rappresenta tutta l'importazione e la produzione made in Israele. Non alimentare l'economia dell'occupazione e dell'apartheid. Non comprare prodotti israeliani. Boicotta, canale adesso, CCS, sede Rete, Barilla, Campana, Lavazza, informazioni bvds.net e su freepalestine.blogs.org. Yeah. be red leaves, painted fingertips, make your sweetheart cry and your best friend try. Fascinate like a temptress, the caress leaves you languishing, exhausting to exhilarate. A tornado, if you say so, and I shake like a quake. Radio Ponderosa. search you and me, God. Conscious currents to break our fragile bones, and both the innocent and the damned are swallowed up in his way. If you were a huntress, that'd be your bow. For your silver arrows to seek out his heart. Your loved woman who made you feel tall. Your loved man who made you feel small. Who are you to complain for lack of understanding? We're all created equal, and just one thing alone, alone. In your thoughts that continue you through your life, they'll take you outwards to the dark edge of time. And there's nothing more dangerous than a man with nothing to lose, nothing to live for, and nothing to prove. Back. bananas in a day.